Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Abbiamo con noi un ospite molto importante, un montevarchino che attraverso la sua arte fotografica ha seguito oltre 40 anni di storia della società, del Montevarchi Calcio, della curva, della montevarchinità allo stadio. In regia con me Simone Uncini, ai microfoni insieme a me Fumino. Buonasera a tutti e come diceva Julian, l'ospite di oggi è un montevarchino doc, un montevarchino che ne ha viste tante e ne ha fatte veramente tante di fotografie. Con noi in studio Massimo Anselmi. Buonasera a tutti. Buonasera Massimo, bene, dicevamo le foto e quindi partiamo proprio dalle foto. Oltre 40 anni di onorata carriera di fotografo all'inseguimento, diciamo, della montevarchinità che si trova allo stadio, quindi fotografando la curva, fotografando le persone che di anno in anno, padri e poi figli e poi i nipoti, allo stadio a seguire il Montevarchi. Quindi avrai visto tantissime cose nascere, crescere e cambiare probabilmente. E da questo hai fatto una mostra che è stata esposta per un mese in centro a Montevarchi, una mostra che ha riscosso veramente tantissimo successo. Ecco, partiamo da questo. Come è nata la passione di fare le foto allo stadio? Io, come hai detto, sono un montevarchino doc e quindi fin dalla tenera età ho frequentato lo stadio. Ti racconto subito un aneddoto, cioè Montevarchi prima era praticamente tutta dentro le mura e quindi la montevarchinità era ai massimi. Mio babbo non andava tanto allo stadio, ma c'era il mio vicino di casa che era anche un dirigente del Montevarchi e mi portava spesso alla partita. La prima partita che mi portò in trasferta mi portò a San Giovanni Valdarno e vidi un bel 6-0, il Montevarchi vinse e da allora quindi praticamente la maglia rosso-blu non mi è scappata dalle spalle. Detto questo aneddoto, io ho sempre frequentato il calcio, quando ero giovane, con termini moderni, un ultras. In quei tempi lì lanciavamo le bombettine prese da Cesarino o il Gobbino, che conosce Montevarchi, erano castagnole e ci prendevamo anche i rimbrotti dei tifosi. Non c'era la curva, non c'erano le gradinate, il Brilliferi era la curva a sinistra, proprio sopra lo stabiolo, perché dove si faceva il riscaldamento era uno stabiolo per polli, insomma. Però ecco, noi lanciavamo le bombettine lì e facevamo un tifo veramente veramente forte da lì. Partendo da questo discorso qui, io, come un momento in cui ho cominciato ad amare la macchina fotografica e anche a potermela permettere, ho cominciato a fare fotografie. Però mi sono praticamente sempre disinteressato delle foto, le squadre, i giocatori, eccetera. La cosa che mi ha sempre colpito, essendo, diciamo, allora giovane, poi meno giovane, ma insomma mi ha sempre colpito, sono stati gli ultras, i tifosi un pochettino più coloriti, chiamiamoli coloriti. E poi quando hanno fatto la curva, allora a quel punto lì, ogni tanto portavo la macchina fotografica e ogni tanto ho fatto le fotografie. Anche perché mi viene da pensare che sì, è molto bello per chi scende in campo fare le foto ai calciatori mentre giocano, magari qualche fotografo riesce a immortalare un gol fantastico con una fortuna allucinante, ma il colore che c'è nella curva con gli striscioni, le magliette colorate, insomma il rosso-blu che appare a vedere la curva è un'emozione solo a guardarlo, quindi immortalarlo probabilmente è un doppio onere e onore. Per me, che sono dalla parte di là della macchina fotografica, veramente un piacere e anche una gioia, perché il cuore, come ho detto e ripeto, è rosso-blu. Perché io avevo già cominciato alla fine degli anni 60, quando mi sposai mi regalarono una piccola cinepresa da casa e credo sia stato i primi filmati che io ho fatto. Allora li facevo sia ai tifosi sia ai giocatori, ho dei filmati credo unici, quasi inguardabili, però dei ricordi bellissimi. Siccome io ero, diciamo, tifoso del Montevarchi e un grande ammiratore di Costanzo Balleri, che praticamente dette la svolta a una nuova epoca per quanto riguarda il calcio rosso-blu, ho dei filmati veramente belli e eccezionali. Già da allora con lo stadio con le 2.000-2.500 presenze, era veramente un piacere poter andare a seguire il Montevarchi. Praticamente in casa, quindi tu c'è una sorta di museo storico degli ultimi decenni, diciamo, dell'Aquila Montevarchi, perché tra filmati, fotografie, hai seguito tantissime partite, probabilmente anche tante volte in trasferta, immagino. Se te dovessi cercare all'interno delle tue foto la più rappresentativa, o comunque quella che porta con sé un ricordo personale più bello da un punto di vista tuo, sia come montevarchino che come tifoso dell'Aquila. Le mie foto per me sono tutte belle e sono tutte significative. Purtroppo quella che avrei voluto fare, ma non avevo la macchina fotografica, ma ce l'ho ancora qui in mente, è quando Piero Bencini a Genova fece il gol. Per noi che si veniva da tanti anni di dilettanti, poter andare al Genova, che aveva vinto 9 scudetti e che era retrocesso 2 anni prima dalla Serie A, in quell'anno lì c'era il Genova e la SPAL, perché quest'anno la SPAL festeggia il 50° anno e noi andò a Ferrara e per un pelo non si stava vincendo, per un pelo non si vince la partita. E quindi l'emozione che a quel treno speciale, perché si fece un treno speciale, sto parlando del 1970, e vedere la gioia dei montevarchini mescolati con i tantissimi sandoriani che facevano il tifo per noi, per me forse è la cosa più emozionante. Poi a quello, chiaramente, dopo un paio d'anni seguì la vittoria con la Pistoiese a Firenze. Non l'ho documentata perché non avevo la macchina fotografica, ma io me la ricordo sempre perfettamente come se fosse ora. E poi dopo, negli anni successivi, ho cominciato a fotografare dove ho potuto. La mia produzione fotografica è iniziata all'inizio degli anni 80, ecco, con la famosa Coppa Italia dei dilettanti che noi vincemmo a Chioggia. Ma poi, tra l'altro, visto che parlavamo di tifosi, in questi ultimi 10 anni circa sei stato anche testimone di tutto il travaglio che c'è stato da un punto di vista anche di seguito proprio della tifoseria rispetto ai pessimi risultati che il Montevarchi ha fatto, e quindi poi anche a tutto il problema societario, fallimento e ripartenza dagli umilissimi campi in cui abbiamo giocato negli ultimi anni. Una fotografia, un ricordo di questi ultimi anni, diciamo, di questo passaggio. Come hai visto ricrescere, perché effettivamente, seppur non sia mai morta, è ricresciuta nell'ultimo anno la passione dei tifosi e il seguito cittadino verso un Montevarchi che ha vinto 3 campionati in 4 anni, se non sbaglio. Se voi avete visto la mia mostra, io questo l'ho documentato, direi, abbastanza bene, perché io ci andavo anche quando c'era 3 gatti e anche con il cellulare ho fatto delle fotografie alla curva desolatamente vuota. Nella mostra io queste cose le ho messe in evidenza, ho messo in evidenza le scritte che i ragazzi della Sud avevano fatto sui vari muri, eccetera, perché era giusto, essendo un periodo comunque storico, documentare anche la non presenza dei tifosi allo stadio, ma in particolare i ragazzi della Sud che avevano in maniera civilissima, torno a dire civilissima, manifestato il loro disappunto nei confronti dei dirigenti di allora, che ci avevano purtroppo fatto scendere dove non eravamo mai scesi nella nostra storia. C'è da dire in effetti che la curva Sud non ha mai effettivamente abbandonato la squadra, ci siamo sempre stati i ragazzi della Sud. Correttissimo tutto quello che hai detto, è proprio dovuto al fatto che era volutamente lasciata vuota la curva per protesta nei confronti delle varie dirigenze di allora, che si sono susseguite in un, di solito si dice, in un crescendo, invece questo fu un diminuendo fino al picco più basso che è stato vissuto pochissimi anni fa. Infatti i ragazzi della Sud avevano messo, mi ricordo una volta, uno striscione a tutta curva, non c'era nessuno di loro, erano tutti ai bordi, proprio per far rimarcare ancora di più che il Montevarchi non meritava quelle categorie. Ecco. Tra l'altro io dalla tua mostra fotografica ho visto una foto di un evento che mi ero totalmente dimenticato, ma che probabilmente se ne è parlato anche poco, perlomeno è rimasto un po' nella memoria. Si tratta della marcia dell'orgoglio montevarchino, che fu fatta oramai non so quante estati fa, però diverse, e che fu una serata, mi ricordo, molto molto particolare anche a livello di montevarchinità. E non avevo visto mai nessuna foto, perlomeno di quelle che si possono trovare su internet. L'ho vista la tua mostra e mi sono ricordato di quella serata, perché tra gli altri c'ero anch'io. Io c'ero a fotografarla, perché dato che ho sempre avuto l'idea di fotografare i tifosi, li ho fotografati anche nelle varie circostanze. Cioè, io li ho fotografati nelle circostanze non buone, quindi una non presenza nella curva, ma lì ai piedi della curva, e li ho fotografati anche nei momenti di gioia. E certo, la marcia dell'orgoglio rosso-blu, e mi ricordo il successo e l'entusiasmo anche dei ragazzi di Montevarchi quando entrarono specialmente davanti alla sede dell'Aquila Calcio. Fotografare si fotografa, però mancava la voce. Se ci fosse stato, diciamo, un registratore, sarebbe stato veramente divertente poter registrare quello che fu detto. Ma l'entusiasmo quando fu l'ingresso in via Roma di questi ragazzi con questi vessilli rosso-blu, striscioni eccetera, fu veramente veramente emozionante. Per ritornare poi a momenti belli, bellissimo fu anche nel 95 quando si andò a vincere il campionato a Lugo di Romagna, e io lì preso la macchina fotografica dalla stazione di Montevarchi in treno, sono arrivato fortunatamente con il primo treno, perché eravamo due treni, ho aspettato il secondo treno, l'ho fotografato mentre arrivava, e poi via via tutta la marcia fino a poi all'apoteosi finale di quando si invase il campo. C'ero anch'io a invadere il campo per poter festeggiare i Montevarchi, e in quel campo c'ero anche io in effetti, e sono ricordi che sono bellissimi, ancora vivissimi nella mente, e che probabilmente mai se ne andranno, perché vivere quel tipo di emozione è una cosa unica, a chi gli succede di viverla se la porta dietro con sé, e questo crea, cementifica più che crea, cementifica molto di più la montevarchinità, perché alla fine ti trovi poi a condividere ricordi ed esperienze con gente che magari nemmeno conosci, però avete vissuto quell'esperienza lì tutti insieme, e a cantare, a mangiare, a correre, a tifare la squadra, per cui si diventa alla fine una grande famiglia, e è questo che alla fine la montevarchinità riesce in qualche modo magicamente a fare. Questa cosa però io oggi la sto vivendo così, oggi, però tu arrivi da molto più indietro, da molto più lontano, già con il tuo lavoro proprio di fotografo, come dicevi prima, ma è sempre stato così. Cioè, prima ci raccontavi che negli anni 60 più o meno la media di persone che andavano a vedere la partita si aggirava intorno alle 3.000. Si aggirava intorno alle 3.000 quando noi siamo andati in Serie C. Avanti, diciamo, era un po' meno, insomma, ecco, cioè. E però da lì in poi, negli anni 70, 3.000, siamo arrivati anche a 8.000. Non mi ricordo una partita con il Livorno, mi ricordo con la Lucchese, mi ricordo con l'Arezzo, però la media era da 2.000-2.500, insomma, non è poco per una realtà come Montevarchi. Tant'è che sì, questi numeri me li ricordo anche io negli anni 90, quando eravamo in C, e probabilmente questo è comunque una cosa che succede dappertutto a chiunque. E questo alla fine è la montevarchinità. Sì, noi si parla della montevarchinità perché il campione, l'esempio che prendiamo è Montevarchi, ma siamo ben coscienti che quello che succede qui probabilmente succede un po' dappertutto, quindi anche qui si vivono dei flussi di presenze più o meno importanti, anche in base un po' a come va la squadra, la categoria che fa. D'altra parte è un po' così, è un po' normale per tutti, e ne so, le tantissime persone che vengono la partita magari quella volta l'anno, perché magari è la partita più importante della stagione, che però poi logicamente durante l'anno fanno altro, e ci mancherebbe altro, ognuno faccia quello che gli pare, non siamo qua a discutere questo. Ed in effetti probabilmente negli anni 60, 70, ma anche 80, perché chiaramente il mondo moderno e le tecnologie che hanno allontanato le persone dagli stadi sono molto più recenti, quindi tempo fa, anni fa, non c'erano tante distrazioni, non c'era tanto altro forse da fare se non andare alla partita la domenica, che era il giorno di festa, ed era una festa proprio la partita, come è una festa ancora oggi in effetti. Però oggi ci sono anche molte più distrazioni, ci sono anche molte più cose, e quindi in quel periodo lì dove le presenze erano molto più numerose per effetto di tutte queste cose qua, come si viveva all'interno della città, all'interno di Montevarchi, la passione per la squadra e la stessa montevarchinità. Negli anni di quando io ero giovane, il fulcro centrale, diciamo, della montevarchinità erano i vari bar cittadini. Indiscutibilmente il punto di ritrovo degli sportivi e non erano proprio bar. C'erano sì le televisioni, però noi per vedere una partita della televisione dovevamo aspettare le 7 la sera e si vedeva un tempo di una partita registrata. Però era bello, specialmente nei bar, perché tutta la settimana, fino al mercoledì, giovedì, si parlava se si era vinto della partita che si era vinto. E dal giovedì poi si faceva la presentazione di quella che era la partita. E poi c'era il solito, diciamo, superintenditore e diceva: questa squadra c'ha Tizio, c'ha Caio, eccetera. Però andare nei bar vuol dire essere 20, 30, 40 persone che discutono di calcio. La partita come veniva vissuta? Quando si giocava a casa si andava a vederla, eccetera. Il buffo era, diciamo, quando si giocava fuori, perché non si riusciva mai a sapere i risultati, perché oggi c'è il telefonino, c'è tutto, a quella fuori non c'era niente e non c'erano nemmeno telefoni nello stadio, e quindi spesso si doveva aspettare quei due, tre tifosi o dirigenti che erano andati, diciamo, a Sarzana o in altri posti a vedere la partita, e poi ci raccontavano quello che era successo. E quindi noi, io parlo come io abitavo nel centro storico, ci radunavamo davanti a due bar principali, che erano i bar Caposciutti e il bar Centrale, e facevamo dei grandissimi capannelli. E poi sulla base di quello che ci raccontavano, la sera ci si faceva le 7, le 8 a discutere, perché Tizio non ha passato la palla, e cioè discorsi di questo genere qui. Era anche bello così, perché si litigava, si gioiva, si litigava amichevolmente, eccetera. Addirittura, per dire, ho detto, io ero un sostenitore dei Balleri, ce n'erano anche tanti che non erano sostenitori dei Balleri, e fra di noi ci si azzuffava in tutte le maniere, escluso Grimani, quello lì. E era veramente, veramente molto bello. La montevarchinità allora si faceva veramente nel centro storico. Poi c'era Igiglio, che anche allora era un bel fulcro, diciamo, per quanto riguarda gli sportivi. Forse erano quelli più coloriti, erano quelli che più prendevano l'iniziativa. Poi basti pensare che il primo club di cui io ricordo, che era l'Asso di Fiori della Gruccia, era sempre in zona Giglio. Però anche lì al Giglio, insomma, si davano da fare, organizzavano cene con i giocatori, organizzavano cene con i... Piano piano, e che è successo? Il paese si è svuotato dei vecchi montevarchini, e il Giglio, tutto sommato, oggi è rimasto, va bene, portabandiera del tifo rosso blu. Questo bisogna dirlo e riconoscerlo. Sì, in effetti nel quartiere del Giglio si concentrano i tifosi rossoblu di tutti gli ordini e gradi, nel senso, da chi va in curva a chi va in tribuna, dai giovani ai vecchi. Sì, diciamo è la funzione aggregativa del calcio all'interno della montevarchinità, in questo caso al Bar Giglio, comunque nel quartiere Giglio rimane ancora oggi, perché ancora oggi probabilmente solo lì o in poi altri posti si trova persone che discutono della partita più o meno esattamente come ci ha raccontato te, tipo dal lunedì al giovedì sulla partita precedente, dai giovedì alla domenica in preparazione alla prossima. Benissimo, ringraziamo tantissimo Massimo Anselmi per essere stato con noi in questa puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Io sono Julian Carax, vi saluto, saluto e ringrazio il nostro regista Simone Uncini, saluto e ringrazio Fumino. Grazie a tutti e grazie a Massimo Anselmi, alla prossima puntata. Oggi non ce la farò.